Europa 24. Un saluto da Gigi Donnelli, benvenuti a questo appuntamento con Europa 24 che inizia con una notizia che arriva dal rapporto Eurispes Italia 2015. La notizia è questa: aumenta il numero degli italiani che non vedono più nell'introduzione dell'euro una buona cosa. Di fatto il 55,5% degli euroscettici italiani ritiene che l'Italia dovrebbe uscire dall'euro perché sarebbe stata proprio la moneta unica una delle principali cause dell'indebolimento della nostra economia. Insomma, una sorta di effetto Grecia che aumenta anche in Italia. E allora, come primo servizio, ascoltiamo proprio il punto di quelli che sono i rapporti bilaterali Atene-Bruxelles. Oggi è la volta del presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, arrivato ad Atene per incontrare il neo premier Tsipras e il ministro delle finanze Varoufakis. Per Varoufakis è l'inizio di una serie di incontri sicuramente non facili. Sarà lui stesso ad avviare la settimana prossima un tour per le capitali europee, fra queste Roma, Londra e Parigi, alla ricerca di sostegno per la nuova politica greca. Politica sulla quale è stato netto il giudizio di Dijsselbloem, che poco prima di partire per la Grecia ha consigliato al governo greco di non procedere all'attuazione delle promesse elettorali, perché, ha spiegato ai giornalisti, potrebbero provocare il deragliamento dell'economia. L'esecutivo greco punta infatti a un taglio del suo debito legato a un piano di salvataggio di 240 miliardi di euro. Ci aspettiamo che il governo mantenga gli impegni presi, ha tagliato corto il vicepresidente della Commissione europea, Katainen, da Francoforte. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ieri sera il voto sulle sanzioni e Mosca reagisce interrogandosi: ancora sanzioni contro la Russia, dice. Per Mosca le politiche di Bruxelles non portano da nessuna parte, così il Ministero degli Esteri, che dice è tempo che l'UE rifletta sullo scontro a colpi di sanzioni che, appunto, dice il Cremlino non porterebbe da nessuna parte. Ma della politica russa si parla questa mattina in maniera molto preoccupata anche al vertice NATO. Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg si è detto preoccupato oggi dalla politica militare della Russia, che negli ultimi tempi, nonostante la crisi economica, ha aumentato visibilmente la spesa in armamenti. La Russia, ha detto durante una conferenza stampa qui a Bruxelles per la presentazione del rapporto annuale dell'Alleanza Atlantica, è pronta a usare la forza e lo ha dimostrato in questi ultimi anni in Georgia, in Moldavia e in Ucraina. Tornando a criticare l'atteggiamento di Mosca nella guerra civile in Ucraina, Stoltenberg ha rinnovato l'appello a un cessate il fuoco tra nazionalisti ucraini e separatisti russofoni e ha chiesto urgentemente ai paesi membri della NATO di aumentare gli investimenti militari ai minimi a causa anche del forte rallentamento economico. Infine, a proposito dei rapporti di vicinanza tra Russia e Grecia, dopo l'arrivo al potere ad Atene di un governo guidato dalla sinistra radicale Syriza, Stoltenberg si è detto sicuro di poter collaborare pienamente con l'alleato greco, come in passato. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E infine il primo summit dei ministri dell'interno europeo dopo la strage di Charlie Hebdo discusse le nuove misure per fronteggiare il pericolo degli attentati. Il servizio. Rafforzare il meccanismo di Schengen alle frontiere esterne, estendere controlli sistematici, creare un registro dei passeggeri aerei per controllare i movimenti dei presunti terroristi e nuove misure di sicurezza online. Queste alcune delle misure proposte ieri dai ministri dell'interno europei per contrastare la minaccia jihadista nel primo vertice dopo la strage di Charlie Hebdo e lo smantellamento della rete terrorista in Belgio. I 28, con in prima linea proprio i ministri francese e belga, hanno chiesto alla Commissione europea di elaborare una proposta mirata per emendare il codice sulle frontiere di Schengen. L'obiettivo è controllare in modo molto più accurato i cosiddetti foreign fighters che entrano ed escono dall'Europa alimentando i gruppi jihadisti. In sintesi, no a un cambio dei pilastri fondativi di Schengen che porterebbe alla limitazione dell'ormai fondamentale libertà di movimento in Europa, ma sì a un rafforzamento e a un potenziamento dei controlli. Tra i nodi da sciogliere anche la direttiva sulla registrazione dei dati dei passeggeri aerei, tuttora bloccata all'Europarlamento, mentre un altro fronte di battaglia sarà quello del reclutamento e propaganda online dei terroristi. L'obiettivo è presentare una strategia europea aggiornata per la sicurezza interna entro metà anno. Il tempo è poco, oltre 3.000 europei hanno combattuto o stanno combattendo in Siria e in Iraq nelle file del califfato. Un terzo di loro avrebbe già fatto ritorno ed è un pericolo potenziale. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con questo è tutto per l'appuntamento e la settimana di Europa 24. Vi ricordo, abbiamo ben due reportage di tema europei nel fine settimana e ci risentiamo lunedì. Un saluto a tutti voi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.